sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. Quante soddisfazioni mi dai! Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe meglio. Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani e con questa così. E con questa, con l'inglese che parliamo io e te, Nicoletta, non lanciare per carità queste idee. Marchigiano. Perché li traumatizziamo questi bambini. Noi abbiamo tirano le gambe. Però. Vedi, però sei molto intelligente da qualche istante a questa parte. Per cui adesso con tutto questo mare di intelligenza possiamo salutare i nostri ascoltatori. Andiamo a prenderci un caffè. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che ritorno da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te. Volevo portartelo, un raggio di sole. Come vedi non ci sono riuscita perché è tutto grigio attorno a noi, ma sono tornata. Le hai tenuti tutti per te i raggi di sole, sì. Sei tornata abbronzatissima, ricaricata, sì. In famiglia, esatto. Con i nipoti, in abbondanza. Il cuore ci ha guadagnato sicuramente. Sì. Beh, diciamo che essendo stata nelle Marche, in famiglia anche i denari non ne sono andati via poi così tanti. Comunque sì, le vacanze, lo sappiamo, sono una questione di cuore e di denari, un momento importante che passiamo con la nostra famiglia, con i nostri amici. Per questo è bello viverle in un posto bello, magari con un bel viaggio, e quindi in un certo senso possiamo anche considerarle come un investimento. Ed è per tutti questi motivi che le nostre vacanze vorremmo che fossero portatrici solo di serenità e relax. Purtroppo però non è sempre così, sappiamo che ci possono essere imprevisti, complicazioni. E allora 800 24 00 24, raccontateci se andrete in vacanza, dove andrete e se c'è qualcosa che vi preoccupa, forse perché già in passato vi è capitato di affrontare qualche disguido. E come è andata a finire? Perché è proprio così, a volte può bastare poco per rovinarci l'umore e mandare in fumo il benessere delle nostre vacanze. Se vi è capitato, raccontateci come avete superato il problema. 800 24 00 24. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E chissà se gli italiani quest'anno hanno seguito la filosofia della stessa spiaggia e stesso mare. Peraltro stamattina su qualche sito ho visto che ricorre di nuovo, è ritornata di nuovo la polemica sulle previsioni del tempo non particolarmente azzeccate, Nicoletta, da parte dei meteorologi. Ci siamo annunciato grandi tempo, poveri. Dovremmo richiamare il nostro amico Paolo Sottocorona, magari sì, nei prossimi giorni lo interpelliamo, che ci ricordava di leggere le previsioni e di considerarle. Sì, ho letto anch'io. Deborah mi fa mi suggerisce, ma ho letto anch'io il giornale entro 5 giorni e poi ricordo che cosa ci aveva detto il nostro capitano. Esatto, registriamo qualche tendenza particolare quest'anno rispetto agli anni passati. Dove hanno deciso di andare gli italiani? Buongiorno a Pier Giorgio Reggio della direzione network Gattinoni Mondo di Vacanze, benvenuto, anzi bentornato. Grazie, buongiorno a tutti voi. E allora, dove andranno le famiglie italiane? In Italia o secondo i vostri monitoraggi hanno scelto anche qualche tappa internazionale? Allora, bisogna innanzitutto fare prima uno spaccato da quello che è il segmento turistico legato all'inverno, dove i trend sono stati anche abbastanza positivi, sono andati molto bene gli Stati Uniti, l'Oceano Indiano, l'Africa del Sud, quindi insomma un trend decisamente positivo rispetto al 2013. L'estate è un po' come il clima, la stiamo ancora un po' aspettando, nel senso che purtroppo la crisi economica, le situazioni anche politiche dei diversi paesi, tra cui il Mar Rosso e adesso purtroppo dopo l'evento capitato alla Malaysia Airlines, fanno sì che l'estate sia un po' a rilento, sta partendo veramente con un po' di fatica rispetto al 2013. Vanno molto bene ancora le destinazioni classiche di medio corto raggio come le Baleari, la Grecia, c'è una buona ripresa della Turchia e aspettiamo tutti il rilancio dell'Egitto in virtù anche dello sconsiglio che è stato rimosso dalla Farnesina. Infatti avremo modo anche di toccare tutti questi argomenti, già quelli anticipati da Pier Giorgio Reggio: le tensioni in Ucraina, le tensioni per il conflitto israelo-palestinese, l'Egitto, ha citato Pier Giorgio Reggio, che peraltro si era anche candidato a fare un po' da mediatore per il nuovo inasprirsi del conflitto israelo-palestinese, ma insomma vedremo come proseguiranno. Ogni estate comunque ne porta una di problematica. Purtroppo il nostro settore deve fare i conti con vari fattori totalmente imprevedibili, quindi per noi che lavoriamo appunto nel mondo del turismo fare programmazione diventa sempre più difficile. Sentiamo se di questo avviso anche il nostro prossimo ospite, che salutiamo, Luca Battifora, presidente di Astoi, Confindustria Viaggi, l'associazione dei tour operator italiani. Buongiorno presidente. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Questi focolai, dicevamo, che sono ormai un po' più che focolai per come si stanno inasprendo, stanno influenzando, secondo la vostra visione, l'andamento della stagione, presidente? Come state affrontando questi giorni? Quali sono le preoccupazioni dei vostri clienti e come state rispondendo? Ma sicuramente non passano inosservati eventi di qualsiasi natura, che siano di natura politica, di natura meteorologica. Insomma, ricordiamo quando successe del vulcano che bloccò il trasporto aereo per 3 giorni. Sì. Quindi, come ha detto il collega che è intervenuto prima, siamo influenzati da fattori esterni, però dobbiamo imparare a conviverci. Il mondo è cambiato. È cambiato proprio lo scenario anche sociopolitico intorno a noi, e come ci conviviamo in tutte le nostre attività quotidiane, anche per quanto riguarda il viaggio e il concetto quindi di girare il mondo, dobbiamo adeguarci e trovare delle regole che siano adeguate a convivere con questa situazione. Ma quali previsioni avete per le prossime settimane a seconda di come si evolverà la situazione? Come vi comporterete? Guardi, il trend delle prenotazioni comunque non è così negativo. Sì, c'è un rallentamento, ma più dovuto anche a fattori climatici. Continuiamo a non avere l'estate in Italia, e questo sembra banale, ma a volte influenza invece la voglia di vacanza anche delle persone. Stanno andando bene le prenotazioni sul nostro territorio, quindi sull'Italia. C'è un buon ritorno delle isole, Sardegna, la Sicilia, l'Elba, così come andando bene le aree del Mediterraneo piuttosto che gli Stati Uniti e l'Oceano Indiano. Ora aspettiamo il grande ritorno dell'Egitto, del Mar Rosso, che è la destinazione più amata dagli italiani come destinazioni estere, la prima venduta. E abbiamo appunto ricordato prima che la Farnesina ha da poco tolto lo sconsiglio su Sharm el Sheikh. Ricorderemo tra un attimo magari perché si era resa necessaria questa raccomandazione, ma presidente Battifora, che budget stanno mettendo sul tavolo le famiglie per viaggiare quest'anno per le loro vacanze? Il trend intanto è che circa il 50% sta nell'ambito degli 8-9 giorni di vacanza, e mediamente l'altro 42-43% nell'ambito delle 2 settimane. Quindi si è ridotto il periodo di vacanza, non ci sono più i periodi lunghi di 3 settimane ad oltre delle vacanze estive, ma c'è una tendenza a fare 1 o 2 settimane. Il budget oscilla indicativamente tra i 1.000 e i 1.500 euro a persona di media, salvo poi una fascia di mercato del lungo raggio, quindi tutti coloro che si rivolgono ad esempio al continente all'Africa australe piuttosto che gli Stati Uniti, che sostengono un budget leggermente superiore a 2.000 euro a persona. Certo. Andiamo a Roma. La nostra prima ascoltatrice di Alessandra, oggi. Buongiorno, ha chiamato l'800240024 per partire un po' con noi, per confrontarsi anche su quelli che sono le emozioni che sempre ci accompagnano quando dobbiamo partire. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno, io vi ringrazio di ascoltarmi. Il discorso è questo, che ogni anno noi tutte le persone fanno dei programmi per poter andare in vacanza, però nel mio caso l'anno scorso non sono potuta andare in vacanza perché dovevo pagare troppe tasse. che non avevo magari pagato l'anno prima e per cui stavo in, cioè eccedeva la mia cifra di tasse, ho dovuto pagare troppo e non sono andata in vacanza. Quest'anno che l'aria era meno attiva perché le tasse stavo pure in credito, e la mia, una delle aziende per le quali lavoro, perché io faccio l'agente di commercio, dopo 80 anni di attività chiude. Per cui ricominciamo a riprogrammare un tipo di vacanza diversa, che sicuramente non è legata a viaggi lunghi, costosi, ma a brevi vacanze limitate alle possibilità. Però, certo. la realtà è che qui parliamo di vacanze, ma dovremmo parlare di problematiche più forti, che sono quelle legate al lavoro. Perché lei mi creda, io sto sulla strada dal 1988 in senso buono, che faccio la rappresentante, e il degrado e l'ascesa a picco è non evidente, di più. Per cui qui le vacanze della gente si limiteranno a 3 giorni, 4 giorni, una settimana, tutte vacanze prese magari dalle offerte o di Groupon o dei last minute, o rivolgendosi addirittura a realtà straniere, low cost tedesche, austriache, per cui l'Italia l'hanno massacrata, la mettono in ginocchio. E poi pregheremo tutti, andremo tutti a pregare sicuramente all'estero, perché in Italia non ci sta nemmeno più spazio per pregare. Alessandra ha realizzato una fotografia, sì, una riflessione amara. Una riflessione amara, una fotografia appunto del nostro paese che immagino condivideranno in molti. La crisi naturalmente tocca tutti, e però appunto chi riesce a ricavarsi un momento per staccarsi dalla propria città, allontanarsi magari appunto per qualche giorno di riposo, si guarda attorno. Ma Pier Giorgio Reggio, Alessandra ha parlato di queste nuove strutture low cost per organizzare le vacanze, adesso a prescindere dai vari Expedia, Booking.com, tutti questi nuovi, come dire, portali che danno l'opportunità attraverso l'e-commerce di organizzarsi con un fai da sé la propria vacanza. Parlava anche di qualcos'altro, Alessandra, che ancora non conosciamo? Ma sono tutti strumenti oggi che, di prenotazione, che permettono di costruire anche da soli la propria vacanza, abbinando vari servizi, quindi iniziando dal trasporto al soggiorno e quant'altro. Ci tengo a precisare che sono tutti strumenti che sono a disposizione anche degli agenti di viaggio, quindi la possibilità di rivolgersi a un'agenzia di viaggi permette comunque di beneficiare anche di questo tipo di attività, però con il supporto di un consulente che gli dia il consiglio giusto. E soprattutto dimentichiamoci che comunque vendere una vacanza vuol dire anche assistere il cliente prima, durante e dopo, quindi aver sempre qualcuno che ti permette comunque non solo di consigliare e scegliere la destinazione migliore, ma anche di assisterti durante il viaggio, credo che sia qualcosa che soprattutto in questo momento, vista anche la situazione che stiamo vivendo, sia assolutamente fondamentale. Molti cercano di organizzarsi da sé proprio per risparmiare, ma c'è l'aiuto in più che un'agenzia di viaggi ti può dare, che magari non ha prezzo, è questo quello ma, che... Sì, nel senso che il consulente deve cercare di consigliare il viaggiatore anche sulla base del proprio budget, quindi non si va in agenzia di viaggi soltanto per acquistare viaggi da 1000 a una notte costosissimi, si va anche per acquistare short break, vacanze brevi, pacchetti turistici con costi anche veramente ridotti. Il consulente di viaggio ti dà quella competenza e quella conoscenza che spesso l'online purtroppo non ti può dare. E magari ti illumina su qualche meta che tu non avevi neanche minimamente preso in considerazione, piccole perle in giro per il mondo che possono essere raggiunte anche con budget. Potrebbe anche aiutarti a farti spendere meglio i tuoi soldi, anche se con un budget molto risicato. Anche perché ribadisco, gli strumenti presenti sul web sono a disposizione anche delle agenzie di viaggio, quindi... E sicuramente saranno a disposizione anche di Donato, che ci chiama da Como. Lui ha fatto il nostro numero verde, si è messo in contatto con noi e ha fatto bene. Buongiorno Donato, benvenuto. Buongiorno a tutti. Eccoci a lei. Io appartengo alla categoria di quelli che magari sbatte la testa per ore sui monitor, un po' anche perché mi ci diverto cercando 1000 offerte. Devo dire che quello che dite sulle agenzie viaggi è vero in parte. Io ne ho girate almeno una ventina, è vero che non fanno statistica, ma quando si parla di budget molto ridotti, non vi nascondo che l'espressione media dell'esercente o del dipendente sì. cambia in maniera drastica, è molto meno sì. interessata. Si, si legge sulla fronte, stai a casa, ma no? Dove va sto poveretto qua? Ma non vai a casa, ma quasi, ecco. Stai a casa allora. Chiaro. Però devo dire che comunque la difficoltà che riscontro anche online è che magari uno trova delle offerte sicuramente vantaggiosissime, quello su cui mi sembra ci sia pochissima concorrenza o quantomeno forse difficile incidere sui costi sono gli spostamenti, perché se io trovo una meravigliosa offerta a Roma, ma poi per due persone in seconda classe un viaggio andata e ritorno in treno mi costa quanto tutta la vacanza euro, adesso è chiaro che con un quarto o forse anche un quinto di quella cifra vado a Londra. Certo. Oltretutto, Donato, ci raccomandano sempre gli esperti di questo settore di, come dire, prenderci tutto il tempo necessario per fare queste scelte, prenotare magari con abbondante anticipo. Il tema è che con quest'area di crisi, Nicoletta, brava, uno prenota anche a febbraio, ma dice ma chissà a luglio come starò messo, come ci raccontava anche prima Alessandra da Roma, con il lavoro che fa improvvisamente ha perso un committente importante. Certo, no? Noi abbiamo imparato che dobbiamo essere flessibili, non tutti però lo sono e possono esserlo. Sentiamo il presidente Battifora che cosa ne pensa, perché poi dobbiamo lasciarlo perché ha un impegno. Presidente, il tema della fiducia toccato da Alessandra da Roma e il tema appunto del rapporto con i tour operator non sempre tanto economicamente vantaggiosi come rilevava appunto Donato da Como. Ma allora, riguardo la fiducia c'è poco da dire, nel senso che sicuramente abbiamo vissuto e stiamo vivendo forse il momento più buio a livello economico dal dopoguerra ad oggi, quindi dico solo dobbiamo guardare avanti con fiducia noi e ognuno di noi nella propria attività. So che è faticoso, pensi che anche nel nostro settore abbiamo avuto una contrazione negli ultimi 5 anni del 50%, quindi davvero importante, molte aziende purtroppo non sono riuscite a sostenere questa crisi, altre invece stanno continuando ad operare. È molto più complesso, molto più faticoso, ma come tutti i cicli economici dico anche che ci sarà una ripresa. Ah, da passare nottata, no? Come dicevo. Brava, sì. Ecco, diciamo, io cercavo di dargli un taglio. E invece noi qua un po' folcloristiche, Presidente. Brava, comunque, concetto, insomma, guardate con fiducia invece voi avanti. Dobbiamo pensare con fiducia, sicuramente. Riguardo al discorso della convenienza, è un discorso molto più ampio, perché il web è un canale di informazione straordinario. È vero che ci può essere anche la convenienza sul web, non è vero che è sempre convenienza. Io dico la convenienza sta nel momento in cui si individua col proprio budget il prodotto più adeguato alle proprie esigenze, perché la cosa più importante è fare un acquisto sano. La vacanza è importante, è un sacrificio economico, perché come abbiamo sentito dagli ascoltatori comunque non è così scontato potersi permettere una vacanza, quindi a maggior ragione va pianificata se è possibile assistita. Ecco, ma Presidente, qual è la cifra giusta per poter entrare in un'agenzia viaggio senza essere guardati con quel ghigno un po' fastidioso appunto sul viso da parte dell'operatore? Non esiste, immagino, no? Adesso a prescindere dalla battuta che ho fatto, però la cifra non esiste, che se qualcuno ha ghignato non è un professionista, perché comunque però bisogna avere rispetto. Capita più o meno la stessa cosa. Io ho un'amica che è abbastanza formosa, porta una 48 piena e allora mi racconta il disagio che ha quando entra in un negozio, soprattutto adesso in momenti di saldi, perché la guardano come per dire ma lei con la 48 viene qui? Ecco, è la stessa sensazione forse di disagio, sì, ci sono, perché dovremmo chiamare è abbastanza, la nostra amica Carla. È la stessa sensazione di disagio, forse avverte qualcuno che entra in un'agenzia, ha pochi soldi da spendere, vorrebbe fare un bel viaggio e si sente un pochino fuori taglia. Ecco, Presidente, che dice? Che posso dare è, non può essere, è impossibile che un viaggio costi la metà di un altro, nel senso non ci possono essere differenze così abissali per quello che diceva l'ascoltatore, ci sono dei costi di trasporto, di strutture che non possono essere dimezzati, quindi diffidare quando c'è una convenienza eccessivamente straordinaria. Detto questo, purtroppo l'Italia soffre la concorrenza di altri paesi perché l'Italia è più costosa, va detto, non perché gli albergatori sono più avidi o guadagnano di più, ma hanno costi più alti rispetto ai colleghi di altri paesi. Però si possono trovare anche adesso, che siamo ormai quasi ad agosto, a fine luglio, vincere, va in un'agenzia per trovare delle proposte di pacchetto a 500-600 euro per una settimana, tutto incluso. Quindi cifre, diciamo, comunque che rientrano. Abbordabili. Va bene. Abbordabili. Grazie, Presidente. Buone vacanze, naturalmente. Anche a lei. Lei le farà? A voi. No, guardi, ad agosto lavorerò, anche perché per noi è là il picco di stagione, certo. Abbiamo decine di migliaia di clienti tiro per il mondo. Da gestire. Vedi? E quindi andrà in vacanza in un altro periodo dell'anno che forse è più vantaggioso, altro sicuramente, vedi? Anche lì è un po' più fortunello. Grazie. Grazie, Presidente Battifo. Che un giorno ne parleremo. Volentieri, volentieri, come no. E vado su, e vado giù, giù, e vado su, e vado giù, giù. Ci scrive un ascoltatore: i nostri vecchi non sono mai andati in ferie, è ora di svegliarsi e smettere di vivere a debito. Un altro ascoltatore ci scrive: la notte non passerà più, molto, vediamo nero, eh? E la crisi d'altra parte ha ridotto un po' i nostri, il nostro, ha limitato un po' il nostro stile di vita. Secondo la Federconsumatori, sulla base dei dati del suo osservatorio, quest'estate solo il 31% degli italiani andrà in vacanza, ma se per un adulto il magari rinunciare o ridurre il tempo destinato alle vacanze può essere una scelta, e anche se faticosa, sopportabile, quando poi ci sono delle famiglie con i bambini, lo sappiamo, i figli sono pezzo e core, siamo disposti a fare qualunque sacrificio. Di famiglia con figli parleremo nella seconda parte della trasmissione insieme ad Alberto Pellai, che è il nostro compagno di viaggio della domenica. Esattamente. Quindi figli piccoli, figli grandi, figli che vogliono andare, noi non vogliamo lasciarli, figli che vanno con i nonni, relazioni, genitori che decidono di mollare i pupi ai genitori per magari godersi una vacanza tre o quattro giorni e ancora nonni, da e nonni che dicono non ci penso per niente. Insomma, tante dinamiche a cui invitiamo naturalmente a riflettere con noi all'800 24 00 24. Insomma, se avete dei pupi con voi, chiamateci. Questa è di Kevin, dalla Kevin. Kevin non c'è. Cosa? E allora, naturalmente noi speriamo che non ci sia bisogno di gestire un imprevisto drammatico come quello raccontato, sì, dal film famosissimo Mamma ho perso un aereo, ma ho perso l'aereo, certo, perdersi un bambino all'aeroporto. No, ti va, come si dice, il cuore sotto i piedi. Sì, ecco. Credo che per quello non ci siano assicurazioni. Ecco, esatto, e infatti per Giorgio Reggio anticipa già il tema che vorremmo affrontare, magari lo faremo dopo a questo punto, la borsa. Il tema è imprevisti e disagi che possono capitare al netto di bambini un po' discoli. Quali sono i più diffusi, Reggio? Ma allora, intanto ci tengo a fare una premessa. Il disagio e l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, quindi purtroppo come è imprevedibile proprio per natura. Però affidarsi, ribadisco, a come dire, ad agenzie di viaggio, comunque a tour operator seri, sicuramente ne riduce drasticamente la possibilità. Però bisogna fare i conti anche con questo. Nella vendita di pacchetti turistici il disagio più frequente è il ritardo aereo. Purtroppo e soprattutto in alta stagione il ritardo aereo diventa frequente, un po' per comunque la gestione del traffico aereo che è sempre più complicata, quindi quello è l'imprevisto, che ormai più di imprevisto si parla ma di previsione, perché poi alla fine in alta stagione sono veramente numerosi i ritardi aerei ai quali noi dobbiamo sempre fare un po' riferimento. E poi a volte anche l'arrivo in albergo, nel resort, nel villaggio e trovare una situazione diversa da quella che ci si aspettava, da quella che era stata venduta. Ecco, questi sono solitamente, però tra il primo e il secondo, cioè tra il ritardo aereo e il disagio per una struttura non corrispondente, il distacco è abbastanza alto. La frequenza sul ritardo aereo è decisamente più importante. Cuore e denari. Cospetto della bellezza, veniamo innanzitutto colti dall'impulso di afferrarla e possederla per darle maggiore spazio nella nostra vita. È come se volessimo disperatamente dire: sono stato qui, ho visto tutto questo. Alain de Botton, l'arte di viaggiare. Eh sì, perché un viaggio ovunque si decida di andare è innanzitutto un viaggio con noi stessi. Anche le vacanze possono essere un modo di conoscerci più a fondo, tanto che ci sono viaggi che rimangono letteralmente nel cuore. Qual è il vostro? Il primo viaggio che avete fatto da soli? Le vacanze di quando eravate piccoli? 800 24 0024. Se adesso siete genitori invece, raccontateci come vi comportate con i vostri figli che stanno crescendo. Le vacanze inevitabilmente significano anche nuovi assetti relazionali, nuovi modi di stare insieme oppure di stare lontani, sì, perché in estate ci sono i figli adolescenti che chiedono di andare via senza più i genitori al seguito, ma con i loro amici o magari anche con la ragazza o il ragazzo. Che sentimento provate? Siete preoccupati? L'ansia cresce anche per le notizie di cronaca di questi giorni. Come avete deciso di comportarvi con i vostri figli? Vi fidate? Li lasciate andare? 800 24 0024. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione insieme ad Alberto Pellai. E come dicevi tu, Nicoletta, lo dicevamo anche in apertura, in questi giorni sono arrivate le notizie che non ci hanno potuto lasciare indubbiamente indifferenti. Mi riferisco naturalmente al Boeing 777 della Malaysia Airlines, abbattuto la scorsa settimana con 295 persone a bordo, partito dall'Olanda, una tragedia che oltre a colpirci ci interessa anche direttamente se avevamo in programma di viaggiare in aereo nelle prossime settimane. Chiaramente molti hanno visto l'aumento delle loro preoccupazioni. Noi oggi vogliamo però tranquillizzare i nostri ascoltatori e lo facciamo anche con l'aiuto del dottor Daniele Giuseppe Carrabba, direttore centrale coordinamento aeroporti di ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile, oltre che rappresentante italiano nell'unità di crisi europea per l'aviazione civile. Dottor Carrabba, buongiorno e grazie. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci fa un piccolo monitoraggio tra gli scali nazionali e quelli dei quali chiaramente può commentare la situazione? Questo tragico avvenimento che abbiamo ricordato, del quale abbiamo parlato moltissimo nei nostri radiogiornali, ha provocato un aumento delle misure di sicurezza a livello di aeroporti anche in Italia. Ci può raccontare quali precauzioni e accorgimenti sono stati presi e in quali scali il livello di guardia si è alzato maggiormente? Guardi, non ci sono particolari misure attivate sugli aeroporti italiani. Le misure che ci sono quelle che attualmente sono in vigore. Non ci sono allarmi particolari in Italia per quanto riguarda situazioni di terrorismo o quant'altro. Ovviamente l'incidente che lei ricordava purtroppo ha creato dei problemi per quanto riguarda l'attraversamento della zona che è stata interessata dall'incidente. In questo momento appunto tutte le compagnie europee, fra l'altro su suggerimento dell'Agenzia dell'Aviazione Civile Europea, devono circunnavigare l'Ucraina e fare altre tratte. Quindi ovviamente i viaggi sono più lunghi, ma questo non toglie appunto che i viaggi si facciano ancora verso tutte le destinazioni dell'Estremo Oriente, compreso Kuala Lumpur. Visto che i cieli dell'Ucraina sono interdetti a questo punto ai passaggi, dottor Carrabba, i voli che devono andare comunque in destinazioni asiatiche, quali altri tragitti a questo punto fanno? Guardi, devono circunnavigare ovviamente la zona, quindi scendono più in basso, Turchia, Bulgaria, in alcuni casi anche ci sono delle tratte molto più lunghe proprio per evitare quel paese. Oggi assolutamente è consigliato, a parte che poi lo spazio aereo è chiuso, ma in alcuni casi anche le zone vicine vengono evitate circunnavigando e passando per altri paesi. Certo, questo per ricordare, anche per rimarcare il tema che affrontavamo prima, se adesso qualche volo è un po' più in ritardo del solito, anche perché certe tratte naturalmente hanno visto improvvisamente un'intensificazione chiaramente dei passaggi. Dottor Carrabba, ogni giorno, lo scriveva Repubblica nei giorni scorsi, si imbarcano su oltre 100.000 aerei 8 milioni di persone, questo per dare anche la misura di ciò che succede tra aeroporti e i cieli appunto a livello mondiale. Figuriamoci quello che sta succedendo in questo periodo con anche le vacanze che stanno facendo milioni di persone. Ci sembra quello del volo, è un mezzo di trasporto veloce, efficiente, che ci sembra seguire tragitti lineari. In realtà le zone critiche e pericolose vengono sempre evitate con grande attenzione, anche a costo di allungare i tragitti. Questo dobbiamo ricordarlo con grande attenzione ai nostri ascoltatori. Sì, assolutamente sì. Noi fra l'altro monitoriamo come lei ricordava, appunto come unità di crisi per l'aviazione in Europa, anche la situazione attuale in Libia e in Israele. Ovviamente anche in quei casi vengono adottate delle precauzioni, quindi possiamo dire che sicuramente la situazione è monitorata e i passeggeri possono essere tranquilli appunto facendo il loro viaggio estivo. Ogni anno c'è qualche preoccupazione che riguarda i tragitti aerei. Negli anni passati ci eravamo più volte imbattuti nel fallimento di alcune compagnie low cost. Ieri abbiamo avuto anche, l'ho scoperto stamattina Nicoletta, uno sciopero tra Linate e Malpensa, per cui ieri probabilmente qualche disagio chi è transitato negli scali milanesi, esatto, avrà subito anche qualche disagio. Quest'anno da questo punto di vista la situazione è più tranquilla, ma insomma abbiamo altre emergenze. Qualche raccomandazione, dottor Carrabba, ai nostri ascoltatori pronti ad imbarcarsi magari nelle prossime ore? Ricordiamo anche la vostra guida pratica, per chi vuole andare a curiosare sul sito dell'ENAC c'è la carta di tutela dei diritti del passeggero. Sì, è un pieghevole Conosci i tuoi diritti, dove vengono date tutte le indicazioni in caso di negato imbarco, overbooking, cancellazione o ritardo dei voli, e questo vale sia per i passeggeri normali e anche per passeggeri che hanno problemi magari di mobilità. Quindi c'è un regolamento che viene monitorato e anche sul nostro sito possono trovarsi tutte le indicazioni del caso, proprio per garantire il diritto, quello che lei ricordava, all'utilizzo del mezzo aereo, che oggi è sicuramente il mezzo che ci consente di abbattere le distanze tra tutti i paesi del mondo. Quindi vedi, sempre in tasca la guida, uno la stampa, perché la guida no? dell'ENAC. Perché no? Dottore. Si trova anche sugli aeroporti. No, anche sui siti delle associazioni dei consumatori, perché poi ogni rappresentante delle associazioni dei consumatori siede in un tavolo apposito appunto costituito presso l'ENAC. Dottor Carrabba, buone vacanze anche a lei naturalmente, buona giornata. Avrete a che fare appunto con queste vicende internazionali che devono essere ben presidiate anche, immagino, da Roma. Nicoletta. Allora, le preoccupazioni comunque anche nel leggere gli messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori continuano per Giorgio Reggio noi abbiamo sentito le rassicurazioni di Carrabba, però non possiamo non comprendere anche le preoccupazioni, i timori di qualcuno che avrebbe voluto magari volare su quelle tratte, deciso magari di ripensarci, di tornare indietro. Si dice, ecco, una volta che avevo fatto le cose per bene con anticipo, e si trova quindi a gestire un po' questo timore che nonostante le rassicurazioni è in qualche modo comprensibile, soprattutto se a volare non siamo noi ma magari i nostri figli. È assolutamente comprensibile, anche perché comunque la paura di volare è anche abbastanza diffusa, e quindi questi eventi in qualche modo condizionano un po' la scelta dei nostri viaggiatori. Come ha detto prima il dottor Carrabba, quasi tutte le compagnie aeree ormai hanno modificato le proprie rotte aeree, quindi in questo momento rassicuriamo completamente tutti i viaggiatori, perché le rotte sono state modificate, quindi non c'è alcun rischio di sorvolare, anche perché appunto ormai la zona aerea dell'Ucraina è stata chiusa, quindi non dobbiamo far altro che confrontarci con questo problema legato soprattutto alla parte psicologica del viaggiatore, che inevitabilmente inizia la propria vacanza già con il piede sbagliato, cioè con la paura di volare. Questo non fa mai bene, neanche per trascorrere poi nella maniera più tranquilla il soggiorno. Certo che se qualcuno però decidesse, proprio perché si è spaventato, anche se in maniera immotivata appunto non vuole più viaggiare, a prescindere dalla località che avesse scelto, è chiaro che la sua rinuncia se la deve totalmente sobbarcare dal punto di vista economico. Se ha prenotato, segue le regole tarifarie, si è prenotato un solo volo, quindi da quel punto di vista bisogna vedere quale tipo di tariffa aerea ha prenotato, qual è la regola di tariffa, e quindi è soggetto alle penalità di cancellazioni previste. Per quanto riguarda i pacchetti turistici, anche qui ci dobbiamo rifare alle condizioni generali di contratto, perché non esiste una motivazione per cui è annullabile il viaggio senza applicazione di penale. Certo. Allora abbiamo Sandro che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Sandro. Buongiorno, dunque io volevo intervenire sulla differenza di vacanze Italia e vacanze all'estero. Sono appena tornato da 2 settimane di vacanza. Dove è stato? In Croazia. Io la conosco perché sono lontani che giro quelle coste e adesso erano 3 anni che non andavo per problemi familiari, quindi l'avevo passati qua, vacanze di Jesolo, quelle zone lì insomma più vicine a noi, e quest'anno ci sono ritornato, 2 nonni e una nipotina di 7 anni, quindi sempre organizzati fai da te, perché non ho mai aderito alle organizzazioni, e quindi sono ritornato in quei posti, mi sono trovato benissimo, siamo stati tranquilli, abbiamo speso anche abbastanza poco rispetto a quello che si sono spesi qua gli altri anni, e quindi una cosa che fra l'altro sarebbe il caso che gli operatori alberghieri turistici andassero a vedere, e l'organizzazione, la pulizia, la tranquillità che c'è in questi posti. Noi siamo un po' indietro. Sandro, lo sa che io proprio questa settimana sono stata in vacanza nelle mie Marche, ho avuto un'accesissima discussione, accesa positivamente naturalmente, su questo argomento con alcuni amici, qualcuno che difendeva a spada tratta la costa marchigiana, le modalità di trattamento di albergatori e ristoratori, e chi invece naturalmente denunciava tutti i difetti. Da che parte stavi tu? Ci sono un po' troppi difetti, devo dire che in realtà l'accoglienza potrebbe fare molti passi avanti in certi posti. Comunque, Reggio, che ne pensa della Croazia? Sta vivendo un momento fortunato negli ultimi anni, anche per una questione naturalmente legata al prezzo, perché è comunque una vacanza abbastanza economica, raggiungibile con i mezzi propri. Devo dire che confermo l'accoglienza e il livello delle strutture è decisamente molto alto. Destinazione anche molto battuta da una clientela giovane, sì. Quindi devo dire che non posso che confermare quello che ha appena detto l'ascoltatore. Soprattutto sul livello delle strutture e sul livello dell'accoglienza, che è decisamente alta. In tenda con la famiglia, come la vedi? Bello. Ti sei mai cimentata con Andrea, Carlo e le ragazze? No, con le ragazze no, con Carlo quando eravamo ragazzi, anche la tenda. Perché io invece Io sai che sono veramente una frana, a montarla. Sei cimentata, hai provato? Sì, però poi hanno fatto altri. E io li guardavo, io dirigevo i lavori, mi sembra che tira su, tira giù. Cuore e denari. Tra poco inviteremo Alberto Pellai, il nostro compagno di viaggio della domenica, con lui parleremo di famiglia, discuteremo di come gestire le vacanze dei figli, dai nonni ai campi estivi o con noi passando per la famiglia allargata. Diverse formule, un obiettivo comune, stare bene, quindi 800 24 00 24, potete raggiungerci anche su Twitter come ha fatto Andrea, che ci racconta che passerà le vacanze in tenda con la famiglia, un divertimento assicurato per i figli. Potete seguirci su Facebook o chiamarci direttamente per raccontarci anche dove passerete le vacanze, come avete organizzato i figli, magari è la prima volta che dovete un po' separarvi dai figli, pensiamo alle famiglie allargate, alle famiglie che stanno affrontando magari il primo anno la separazione, quindi figli con la mamma, figli col papà o figli con i nuovi compagni di lei, della mamma o del papà, nuove relazioni che nascono, nuovi problemi da gestire e da risolvere, ma noi siamo qua pronti a darvi una mano. Abbiamo parlato prima dei voli che in questo periodo stanno destando delle preoccupazioni qualora si fosse deciso magari nei mesi passati di andare in qualche area dell'Asia o del Medio Oriente eccetera, quindi molte famiglie che hanno rinunciato. Tina segnalava prima Nicoletta appunto a microfoni spenti che è arrivato anche il suo messaggio, e anche questo forse nel caso di commentare, da siciliana ci racconta: sono rimasta colpita dalla decisione di alcuni amici che hanno rinunciato alle ferie in Sicilia per paura degli sbarchi di immigrati. Succede anche questo, Pier Giorgio, Reggio? Ma devo dire che è abbastanza limitato come caso, non mi risultano situazioni critiche di annullamento sulla destinazione legato agli sbarchi. Certo, interessa prevalentemente Lampedusa per i motivi che tutti sappiamo, una destinazione che ormai purtroppo ha fatto l'abitudine in questi anni, ed è bruttissimo da dire, anche a conciliare la parte turistica con purtroppo questa situazione che da un punto di vista umano è veramente devastante. No, non mi risulta, ribadisco quanto segnalato calcolato dall'ascoltatore. Magari, come dire, statisticamente non è una cifra rilevante, però qualcuno evidentemente ha preso anche questa decisione. C'è naturalmente chi commenta ancora la differenza fra il viaggio fai da te e fai da te il viaggio organizzato dall'agenzia, un tema che ricorre. Infatti, come ci racconta Gabriele, che è ritornato in agenzia viaggi per il viaggio di nozze. Bravo. Evidentemente voleva fare le cose proprio per bene, ma ha un piccolo rimpianto, perché ci dice: se l'avessi organizzato da solo avrei speso molto meno. Vabbè, diciamo, ma ormai è in coppia, quindi si sarà tolto un po' di preoccupazione, insomma, si è fatto fare a qualcun altro. Qua Matteo da Modena invece dice: sono stati in Salento negozianti e ristoratori che mi sembrava fossero lì un po' per approfittarsene degli avventori, mai uno scontrino, mai che si possa pagare con carte o bancomat, e anche questo è un po' nostro paese e non va bene. Invece tu sei stata a Capri di recente. Volevo raccontarlo io, ma mi volevo limitare. Siamo andati con la radio a prendere il premio Agnes, perché appunto Radio 24 ha ottenuto questo riconoscimento. Sono andata io con alcuni colleghi, Sebastiano Barisoni, Anna Migliorati e Elisabetta Fiorito, e dopo i blitz dell'agenzia delle entrate non c'è stato un negoziante che non mi ha rilasciato uno scontrino senza richiederlo mai, ed ero molto contenta. Magari Capri non è probabilmente, insomma, qualcosa di molto molto diverso da altre zone d'Italia, non so, però restiamo a Milano. C'è Antonio che ci chiama all'800 24 0024. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, piacere di parlare con voi. Anche per noi. Io vorrei contare una cosa, ecco, in quanto riguarda i prezzi, ecco. Io è un po' di tempo che vado in Canada. Ecco, due anni fa ho speso, per me e mia moglie, 1.080 euro andate e ritorno con scalo. L'anno scorso 1.180, sempre lo stesso viaggio, sempre con lo scalo a Roma o a Monaco o da Amsterdam, va bene. Quest'anno quello che ho trovato più basso è di 1.700 euro. Stesso periodo, Antonio? Esatto, sì. Tra l'altro adesso c'è Milano-Toronto diretto, che sarebbe stato bellissimo, molto comodo, prezzo più basso di 2.400 euro, sempre per me e mia moglie. C'è una differenza... Sì, è pazzesca, incredibile, no, e forse anche inspiegabile, ma magari Reggio ce lo spiega. Cosa è successo, se conosce questa tratta? Semplicemente riguarda un po' tutte le tariffe aeree che sono soggette a un prezzo variabile sulla base della disponibilità, quindi dell'anticipo con il quale si effettua la prenotazione. Quindi inevitabilmente, quando vengono pubblicate le nuove tariffe aeree per le diverse stagioni invernali, chi prenota con maggior anticipo beneficia delle tariffe più scontate. Quindi in questo caso, può darsi che o sia andato troppo a ridosso, o semplicemente in quelle tratte e su quelle date di partenza il volo era già pieno su quelle che erano le tariffe scontate, quindi sulla base della disponibilità rimangono sempre le tariffe più care. Più però costose. In realtà quello che lui si chiede, se ha sempre organizzato questa vacanza in Canada con la stessa modalità, da 1.080 euro due anni fa, 1.700 quest'anno, la differenza è pazzesca. Ma ci sono all'interno della stessa tratta, della stessa rotta, esiste una differenza di prezzo, pur viaggiando sullo stesso aeromobile, facendo lo stesso itinerario, molto alte, perché naturalmente esistono delle tariffe aeree scontate e molto vantaggiose, ma su un numero limitato di posti, e poi a seguire arriviamo fino a tariffe aeree decisamente più alte. Dobbiamo cambiare destinazione? Sì, volevamo andare proprio lì e invece stiamo qui. Dai, ci mettiamo adesso, se viene il sole, andiamo al parco. Io sono bella rovente addosso, un giornino di fresco mi fa anche comodo. Consigli proprio per chi non ha pensato dove andare in vacanza, esatto, e all'ultimo momento. Ci Meno sono delle persone che pensano, no, me la cavo bene con last minute, poi alla fine non è sempre così. Cosa facciamo per risparmiare un po'? Quali sono magari anche i tranelli in cui un viaggiatore inesperto cade e gli costano di più, inevitabilmente? Ad esempio, meglio sempre prendere il volo con l'albergo e non le due cose separate. Non so, sto inventando, ma lei ci guidi, perché io devo prendere appunti. Assolutamente. Voglio andare in vacanza. Spero di darle le informazioni utili. Allora, intanto, come ha detto il presidente Battifora di Astoi, diffidiamo da quelle che sono le promozioni eccessivamente convenienti, perché esistono dei costi di gestione come il trasporto aereo, appunto come dicevamo prima, che non permettono un abbattimento così alto del prezzo. Quindi questa è la prima regola. Quindi già se vai in aereo, attenzione, spendi di più. Ma assolutamente, ma poi no, è inevitabile. Stiamo molto attenti, diffidate dalle promozioni veramente eccessivamente economiche da quel punto di vista. Destinazioni nuove, tendenze nuove, in questo momento io mi sentirei di ribadire la destinazione Mar Rosso, che non è una destinazione nuova, ma è una destinazione che deve assolutamente riprendere la posizione di leader che aveva nel mercato turistico italiano, perché è una destinazione che per qualità prezzo, per rapporto qualità prezzo, per stagionalità, 12 mesi l'anno, è una destinazione che va bene alle famiglie, perché ci sono delle ottime promozioni con i bambini gratuiti o con i bambini assolutamente scontati. È una destinazione che dalle 2 ore e mezza, 3 di volo, se parliamo della costa mediterranea, quindi una destinazione come Marsa Matruh, che io consiglio, ed è la destinazione che raggiungerò quest'estate per le mie vacanze. La trovate anche lì, quindi ci facciamo documentare lì, il viaggio, porterò tutta la mia famiglia e quindi anche le mie figlie a testimonianza della destinazione sicura. Ecco, un mare caraibico a 3 ore di volo, devo dire, è difficile da trovare, e ci sono delle promozioni, soprattutto adesso, perché gli operatori hanno la volontà di rilanciare questa destinazione, ci sono delle promozioni molto interessanti. Quindi speriamo e ci auguriamo che appunto l'Egitto possa essere in questo momento rilanciato nella maniera corretta. A giugno, ci tengo anche a dirlo, se possibile, abbiamo fatto un evento importantissimo per il settore turistico che si chiama United for Egypt. Abbiamo portato 1000 agenti di viaggio a Port Galip, che è una destinazione vicino a Marsalam, per rilanciare la destinazione. Quindi abbiamo testimoniato la sicurezza, la situazione di stabilità adesso del paese, abbiamo fatto vedere le nuove strutture, e quindi ci auguriamo che questa operazione fatta con Astoy e Ainet, che è l'associazione italiana Network, possa rilanciare appunto tutta la destinazione Egitto. Ci ha già convinto, non deve dire altro, secondo me siamo già là. Vediamo se ha convinto anche il nostro amico, il nostro compagno di viaggio della domenica, il professore, perché noi lo diciamo amico, ma lui è un professore. Certo. Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta, scrittore, autore di numerosi saggi, autore del libro che io ho letto con grande piacere e godimento, adesso lo farò leggere anche a Deborah, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, che sta avendo grandissimo successo. Ciao Alberto, bentornato. Buongiorno Alberto. Ciao, buongiorno a voi. Alberto, io sono quasi in vacanza, da solo ad ascoltarvi. Alberto, devi scrivere un libro, le zie vengono da Plutone e gli zii da Urano. Da Urano, perché no? Ti vanno bene questi pianeti? Possiamo provarci. Dove vai con la tua carovana quest'anno? Ma siamo in realtà tornati da una settimana in montagna che è stata molto rigenerante, non abbiamo trovato un tempo meraviglioso, però alla fine ci siamo molto molto divertiti, e poi invece a fine agosto andremo al mare in Basilicata. Quindi un po' anche in Italia, perché alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo che per risparmiare ci mandate sempre all'estero, ma bisogna anche incrementare, valorizzare il turismo italiano, assolutamente così. Ad esempio Deborah è andata nelle Marche, quindi Alberto ritorna nella Basilicata. Una vacanza low cost quasi a chilometro zero, direi. 800 24 00 24, abbiamo un minuto per sentire Mirella che ci chiama da Ancona. Certamente. Mirella, qua sembra che me le porto dietro le ascoltatrici. Mirella, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, siete la mia compagnia di tutti i giorni. Grazie Mirella. Allora, io vi volevo dire che a gennaio ho prenotato un pacchetto a Palma di Maiorca, 7 giorni in un albergo di seconda categoria che equivale a 4 stelle dell'Italia, per quanto è bello, con la piscina, il giardino e compagnia bella, mezza pensione, a 326 euro compreso l'aereo, Bologna-Palma, Parma-Bologna. Quindi a gennaio. Dopo 7 giorni... Arriviamo all'aeroporto, il nostro volo era stato cancellato, però c'è stata la bellezza che la Ryanair col suo sciopero ci ha dato 3 giorni di più da vivere a Palma di Mallorca in un albergo di 5 stelle. Eccolo là, e quindi quando lo sciopero è un benvenuto nella nostra vita. Esatto. Grazie, comunque il tema era la bassa stagionalità, è chiaro che le offerte che troviamo sono decisamente più vantaggiose in posti che hanno questo sole tutto l'anno, eh? Che dici, Nicoletta? Febbraio dobbiamo andare, sì, in Egitto io e te, e poi a Palma di Mallorca a febbraio. Sei dai, pronta? Iniziamo a prenotare. Andiamo a dirla al direttore, sei contento? Intanto noi prenotiamo Alberto Pellai, perché certo, lo lasciamo in linea con noi, perché con lui vogliamo parlare dei rapporti con i figli, certo, piccoli, grandi, famiglie allargate. No, Alberto, esatto, sei pronto? Sì, sono qua. Grazie Alberto, buona estate a Pier Giorgio Reggio e a presto. Grazie a tutti voi. Cuore e denari. Nascondi i soldi. Tieni acceso il cellulare. Stai in gruppo. Evita le brutte compagnie. Mangia. E queste sono solo alcune delle raccomandazioni che si fanno prima di lasciar partire i figli da soli, magari per la prima volta. Vi ritrovate, ne fate altre. 800 24 00 24, in linea con noi Alberto Pellai, autore del libro Papà vengono da Marte, le mamme da Venere. Alberto, eccoci qua. Sì, sì, credo che le raccomandazioni ai figli, io mi metto proprio in prima fila, sono adesso una parte in questo momento dell'anno, quando magari vediamo i nostri figli per la prima volta andarsene via da soli, muoversi magari con il loro gruppo di riferimento, ma in realtà senza la nostra protezione, allora ci sembra necessario doverli dotare di un sacco di informazioni e di protezione, come se loro fossero un po' allo sbaraglio, come se loro senza le nostre indicazioni in realtà si mettessero nei rischi. In molti casi poi i nostri figli sono molto avveduti. E anche quindi i figli, sai, quando crescono iniziano a fare le raccomandazioni ai genitori: mamma mi raccomando non chiamarmi, mamma mi raccomando non mandarmi messaggi, mamma mi raccomando. Cosa dici? È una bella inversione dei ruoli, e credo proprio che effettivamente molti genitori, quando i figli sono tra i 20 e i 30 anni, tantissime volte si trovano proprio in quella posizione, cioè si sentono improvvisamente protetti dai loro figli, che si ritengono più esperti, esperti probabilmente o più competenti, e quindi li vogliono in qualche modo tutelare e proteggere. Beh, è un bel modo anche, no, per vedere che abbiamo fatto un buon mestiere con loro. 800 24 00 24, oggi vogliamo parlare di famiglie con figli, figli piccoli, figli grandi, figli che vogliono partire, figli che noi cerchiamo di fare andare magari al campus o all'oratorio o con gli scout, invece loro tendono a dire no, io preferisco stare a casa, non c'è l'amico, vado da sola. Hanno un po' di mammite. Antonella, buongiorno, ci chiama da Treviso, e subito dopo andiamo a Modena a sentire Giuseppina. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo farvi una domanda. Ho una ragazzina di 15 anni che quest'anno ad agosto manderò in Canada da una famiglia di parenti amici, in modo che acquisisca una buona proprietà della lingua inglese, americana, insomma. E niente, ho prenotato ancora il volo aereo a febbraio ho richiesto l'accompagnamento, la procedura di accompagnamento, perché minorenne, perché certo, quindi, esatto, e volevo sapere esattamente quali sono gli step, nel senso che io ho pagato sia la procedura di andata che quella di mentre quella di ritorno l'agenzia mi ha detto che dovrò pagarla all'aeroporto quando la ragazzina dovrà imbarcarsi. Esattamente, io volevo sapere un po' gli step di questa procedura. Allora, guardi Antonella, abbiamo purtroppo dovuto lasciare i nostri esperti su questo tema, sia Pier Giorgio Reggio che Battifora hanno dovuto interrompere anticipatamente appunto la loro partecipazione a Cuore Denari, ma lei, se ci scrive, anzi Nicoletta mi prende in giro perché faccio le mani da pianista quando dico ci scriva, prendiamo adesso il suo contatto in privato e le rispondiamo in privato. Devo dirle che c'è un'altra mamma che ci scrive, così magari dall'esperienza di quello che è successo a questa signora potrà far tesoro per il suo caso, per la sua bambina che sta andando, per la sua bambina, per sua figlia adolescente che sta andando in Canada. Io le leggo quello che ci scrive Carla, e così magari prende appunti e spunto, e magari appunto farà in modo che tutto ciò non si verifichi, e farà anche i patti molto chiari con la compagnia aerea alla quale affida sua figlia. Questa mamma ci racconta che ha affidato ad Alitalia per il volo Torino-Roma-Boston, quindi anche con uno scalo intermedio, suo figlio di 12 anni. La hostess all'aeroporto d'arrivo, vedendo che il bagaglio non era pervenuto, non ha fatto la dovuta denuncia di bagaglio smarrito. Quindi nessuna possibilità di trovare il bagaglio, ritrovato manomesso e senza contenuto poi ai Lost and Found di Boston da una persona di fiducia. Dopo due giorni realizzato ciò, ho tempestato all'Italia di telefonate senza nessun supporto e scoprendo che oggi che si traccia al minuto anche un libro spedito da Amazon, all'Italia che ha in affido un bambino non è in grado di dire se il bambino è stato consegnato. Allora, io invece conosco anche molte persone che fanno viaggiare molto spesso su rotte anche così complesse i loro figli, non è mai successo niente di tutto questo. Le hostess si incaricano dall'inizio alla fine fino alla consegna, persona fidata sul posto, sulla destinazione appunto dei bambini, per cui io spero che il caso di Carla sia un'eccezione. In ogni caso, appunto, ecco, cercate magari più che altro di prendervi il nome e il cognome delle persone alle quali il bambino viene affidato. Secondo me questa è già la precauzione più Alberto importante. Cosa ne pensi? Ma in generale quello che vedo io, che ho visto succedere, è che i bambini non vengono, che hanno questa procedura della UM, cioè minore non accompagnato, non vengono mai lasciati da soli, cioè l'unico momento in cui stanno in solitudine è quando sono imbarcati sull'aereo e quindi messi proprio sul tragitto di volo, ma lì l'hostess e gli assistenti di volo sono perfettamente a conoscenza che c'è un minore al quale dedicano particolare attenzione. Dopodiché tutti gli spostamenti invece in aeroporto sono sempre accompagnati fino a che il bambino non viene consegnato alla persona che è stata data come riferimento per il ritiro del bambino all'aeroporto di arrivo. Alberto, abbiamo in linea con noi Giuseppina che ci chiama da Modena e poi torneremo a parlare naturalmente e continueremo a parlare di figli che iniziano a fare le loro prove di volo. È proprio il caso di dire di allontanarsi dalle famiglie per recarsi a frequentare un corso di inglese o, perché no, per fare proprio le prime vacanze insieme al gruppo di riferimento. Giuseppina, buongiorno, ci chiama da Modena. Buongiorno a voi e al vostro esperto. Io quest'estate, ma è capitato anche altre estati, ho portato mia figlia a vedere due concerti a giugno a Milano, perché lei è in fase adolescenziale, per cui è interessata a tutto quello che è la musica. E devo dire che è stato un momento piacevolissimo, come tutti i momenti che trascorriamo insieme. Veramente. Bella Giuseppina, ha detto una cosa magnifica. Molto, perché lei chiaramente ha i suoi interessi, io i miei, mantenendo sempre i nostri ruoli, io di mamma e lei di figlia, cerchiamo di venirci incontro, ecco, forse questa è la parola, almeno per me, corretta. E poi un'altra considerazione, sentivo le raccomandazioni, ecco, io a mia figlia faccio questa raccomandazione durante l'inverno, l'estate sempre, di divertirsi, perché chiaramente i 16 anni non tornano, è un momento bellissimo da vivere, però rispettandosi e rispettando gli altri. In questa maniera si va tranquilli, avanti. Brava Giuseppina. Forse, sereni, tranquilli forse una parolona. Però forse sereni, sperando che in quello che insegniamo ai nostri figli magari sbuffano un po', ecco, però forse il bagaglio che hanno prima o poi viene fuori e lo sanno utilizzare. A proposito di viaggi, Alberto, Giuseppina proprio ci ha dato in una messa, in una valigia, tanti consigli per i genitori, consigli di cui so che tu sei molto allineato. Sì, io penso che la cosa importante per un genitore che vede partire il proprio bambino o il proprio figlio adolescente è sapere chiaramente che cosa gli succederà, chi sono gli adulti di riferimento nel posto in cui andrà, quali sono le aspettative che il figlio ha anche rispetto alla propria vacanza. Detto questo, è fondamentale che un genitore faccia proprio sentire al figlio l'orgoglio anche, no? Per questa separazione, per la sua capacità di andare in un posto dove non c'è la dimensione di protezione costante, di supervisione costante da parte dell'adulto. Un altro aspetto che ritengo importante è che un genitore ha il proprio figlio sotto gli occhi tutto l'anno e quindi è inutile, quando un figlio parte, immaginare che improvvisamente si trasforma in un mostro o in qualcosa di completamente differente da quello che è stato fino a quel momento. È molto probabile che un figlio lontano da noi continuerà a essere in parte, non completamente, ma in parte il figlio che abbiamo imparato a conoscere. Quindi se noi abbiamo un figlio di cui ci fidiamo durante tutto l'anno, dobbiamo continuare a pensare che quel figlio ci lascia tranquilli anche nel momento in cui va in vacanza. Alberto, c'è però anche il caso opposto, quando ad esempio sei tu genitori che vuoi mandare un figlio in vacanza col gruppo sportivo oppure dell'oratorio e lui non ci vuole andare, preferisce magari stare in città, fare nulla pur di non separarsi dalla sua mamma e dal suo papà. Quanto si deve forzare questa sua richiesta di non separarsi? Guarda, quella che mi stai dicendo è proprio tra l'altro una di quelle richieste che in estate chi fa il mio mestiere si sente fare molto spesso dai genitori, cioè ci sono dei figli che sembrano davvero incapaci di potersi allontanare da mamma o papà. Allora, in generale la cosa migliore è che durante l'estate il figlio si allontani da un genitore per stare in un ambiente però che ha già frequentato e ben conosciuto durante l'anno scolastico, quindi se stiamo parlando di un campus sportivo con la squadra che il figlio ha frequentato durante tutto l'anno, se stiamo parlando per esempio del gruppo degli scout, se stiamo parlando del gruppo dell'oratorio, se stiamo parlando di una vacanza di studio organizzata dalla scuola dalla quale proviene il figlio, ecco, direi che quelle sono vacanze che un genitore può proprio anche un po' forzare rispetto alla resistenza di un figlio. Chiaramente bisogna avere, quando i bambini sono piccoli, intorno agli 8-9 anni, bisogna aver già verificato che sanno stare a dormire per esempio in casa di amici senza avere problemi particolari, ecco, non fargli fare il primo battesimo di separazione dai genitori con un'esperienza a distanza magari che dura molti giorni. Possiamo sentire se queste considerazioni valgono per il caso di Giorgio dalla provincia di Pescara, che credo voglia raccontarci qualcosa di molto affine a quello che stavamo dicendo. Peraltro stavo ricordando quello che facevo io quando ero ragazzina. Io adesso viaggio con grande tranquillità, me ne sono andata via di casa, sono indipendente, ma ho avuto una fase in cui mi mandavano in colonia, ma io non ci volevo stare, volevo tornare a casa, mi pensavo alla mamma continuamente. Adesso ho avuto questo flash della mia infanzia e poi questo proprio non ha pregiudicato. Con Giacomo Poretti, parlando del libro che aveva scritto Alto come un vaso di gerani, lui raccontava delle sue esperienze in colonia e mi ricordo in quella puntata molti ascoltatori sono intervenuti. Vero? Perché la colonia ha segnato l'infanzia di molti bambini. Meno male, sono in buona compagnia. Allora. Giorgio, buongiorno. Giorgio, eccoci. Buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Beh, allora devo dire subito che abbiamo già provato con la colonia. Il bambino l'anno scorso è andato una notte fuori con gli scout, quindi ha già provato questa esperienza. L'unica cosa è che il suo, tra virgolette, difetto è quello di estraniarsi dal gruppo. Quindi lui si mette in disparte, sta da solo e quei giochi che fa li fa da solo. Quindi noi quello che volevamo cercare di fare è cercare di farlo aprire, fargli fare più amicizie, e per questo abbiamo iscritto sia gli scout ma anche attività sportive tipo il calcio. Quindi volevo sapere se stavamo facendo bene o se c'era. Se eravate sulla strada giusta, Alberto. Ma direi che in realtà va molto bene, cioè l'esperienza per esempio degli scout è proprio un'esperienza che punta sul costruire legami all'interno di un gruppo e poi un modello di cooperazione, per cui i ragazzi si mettono in relazione ma si aiutano anche fra di loro nel momento in cui devono raggiungere degli obiettivi. Tra l'altro l'esperienza del campo settimanale estivo per gli scout è un'esperienza che viene proprio preparata nel corso di tutto l'anno, perché i ragazzi almeno una volta al mese di solito fanno un'uscita che prevede anche un pernottamento notturno nel fine settimana fuori di casa. Quindi con questo curriculum vitae alle spalle un bambino si trova abbastanza pronto poi a queste esperienze di separazione. E l'altra cosa è che per un bambino molto timido effettivamente questa diventa proprio un'esperienza anche formativa e promotiva, cioè che lo aiuta un po' a superare parte della propria timidezza. Vogliamo però parlare anche delle coppie che si stanno separando e che magari proprio in quest'estate per la prima volta devono trascorrere un periodo con i figli senza il partner. Che problemi potrebbero sperimentare, Alberto? Quali precauzioni è giusto avere? Allora, questo è proprio uno di quei casi di nuovo molto frequenti dove i genitori a volte non sanno muoversi bene. Se questa è la prima estate in cui la vostra famiglia vive da separati il tempo delle vacanze, è fondamentale che la mamma e il papà, seppure presi magari da una separazione un po' faticosa, riescano a far sperimentare ai loro figli una buona alleanza genitoriale. Quindi dovranno portare via i bambini, spesso prima il papà o poi la mamma, oppure viceversa. In questo tempo di sicuro i bambini lanceranno anche molti messaggi di come per loro magari è un po' triste o un po' faticoso essere via per la prima volta senza l'altro genitore. Dovranno facilitare i contatti al telefono con il genitore che è rimasto a casa. Se possibile, se i bambini per esempio stanno via 2 settimane, è molto utile anche che il genitore che è rimasto a casa e che magari li vuole raggiungere nel fine settimana possa raggiungerli magari dormendo in un'altra camera, chiaramente che non è quella della mamma, ma questo significa proprio che i bambini hanno la possibilità di vedere due genitori che, seppure si sono lasciati, sanno cooperare molto bene per far vedere ai bambini che sanno essere lì presenti, amorevoli, affettuosi, quando in gioco c'è quello che è meglio per i loro figli. Sì, no. No, sai perché? Stavo pensando che volevamo parlare con Deborah anche dei nonni e anche degli zii. Sì. Con cui i nipoti trascorrono anche magari una parte delle vacanze. Insomma, qualche ora al mare me ne son fatta nell'ultima settimana. Grado di attenzione, nel senso, devo sempre un pochino urlare, un po' più dalla mamma, per farmi rispettare, perché loro se ne approfittano. Però, insomma, mi sono ritagliata un ruolo anche discretamente educativo, ecco, ho tentato almeno di farlo, però insomma l'autorevolezza è un'altra cosa, Alberto, quella delle zie non è proprio al massimo. Beh, direi che in realtà poi le zie servono proprio a divertirsi, no? Cioè a fare cose che magari con la mamma e il papà non si riescono a fare sempre, mentre i nonni spesso si portano in vacanza i figli un po' col compito di sostituire la coppia genitoriale, quindi di mantenere un po' tutta quella cornice educativa di regole e un po' di limiti che sono già reperibili anche nella vita, nella quotidianità in cui, quando si sta a casa, per cui credo che questi, la famiglia allargata in generale, nonni, zii eccetera, diano un grande sollievo ai genitori durante l'estate e permettano anche ai bambini proprio di respirare e di sperimentare spazi relazionali che sono alternativi a quelli che trovano con mamma e papà. Allo stesso tempo magari danno anche a mamma e papà la possibilità a volte di poter fare piccole fughe, magari un weekend in cui l'uomo e la donna smettono di essere mamma e papà per 2 giorni e ritornano ad essere compagno e compagna, che anche questo dà molta carica, ecco, dà molta energia. Sì, questo è proprio un consiglio che date nel tuo nuovo libro, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere, cioè il papà e la mamma tornano ad essere proprio coppia e fanno una piccola fuga, quindi benedetti nonni, benedette zie. Esatto. Lalla da Como, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una benedetta nonna, volevo intervenire come benedetta nonna perché ho qui proprio in questo momento le mie due nipotine che vivono comunque a Basilea d'abitudine. Ah. Anni, Lalla? Io? Le nipotine. Allora, le nipotine sono una ha appena compiuto 8 anni e l'altra 11 e mezzo. Allora, loro passano volentieri qualche giorno con me e anche qualche periodo piuttosto lungo in estate, anche se loro hanno meno vacanze. Ma io non volevo intervenire sulle nipoti e sulle cose, volevo intervenire sui quindicenni che vanno all'estero per conto loro. Sì. Io mi sento un UFO, lo diceva la signorina. Perché, Lalla? Perché io ho 74 anni, sono del 40, e nel 1955 ho messo i miei genitori davanti al fatto non compiuto, perché naturalmente ero in famiglia, dipendevo dalla famiglia, io ho avuto una famiglia molto unita, molto, molto bella. A un certo punto la scuola che frequentavo mi è stata un po' stretta e ho detto: per imparare l'inglese devo andare in Inghilterra. Allora, mi è stata un po' stretta perché sono andata a scuola un anno prima e non le so raccontare tutta la vita. Ho deciso e l'unica cosa che sapevo, sulla quale potevo contare in quel momento, era il figlio di amici dei miei genitori, che io non avevo mai visto, che mi avrebbe preso al Victoria Station. Io non sono riuscita a procurarmi un alloggio prima di partire da qua, e allora bisognava avere, si faceva una dogana molto molto impegnativa, e ti listano le valigie, ti chiedono di tutto, se sei poco tipo Ellis Island a New York. Parliamo del 1955, ecco. A Londra, io ho fatto il viaggio in treno, 22 ore, quindi c'erano i cellulari. Esatto, Lalla. E quindi il parallelo con oggi proprio, questi ragazzi di 15 anni hanno tante cose, ma le cose più essenziali non le sanno fare. Cioè la lingua bisogna usarla, perché a un certo punto usava non la lingua inglese ma anche la lingua italiana con la hostess e dire scusa guarda che io sono qui da solo e occupati del mio bagaglio. Sì, è la prima volta che viaggio, cioè ma voglio dire, ma è la cosa più elementare che uno può, ma insomma hanno si perdono un po' in un bicchiere d'acqua. Lalla, esatto, ecco. Esatto, sentiamo se Alberto Pellai, siamo quasi in chiusura, Lalla è d'accordo con Lalla oppure ma penso spezzo che una lancia a favore dei ragazzi, che di sicuro probabilmente oggi i nostri figli sono molto più protetti e accuditi rispetto al passato, ed è per questo che il viaggio e la vacanza, che è un'esperienza di esplorazione, di allargamento dei confini e anche di acquisizione di competenze, è sempre una grande opportunità per la crescita. Allora noi dobbiamo salutarci sì. Però domani torniamo. Assolutamente sì. Non so se è una minaccia o una promessa, però torniamo. Grazie ad Alberto Pellai per essere stato con noi. Grazie Alberto, a voi. Buone vacanze. Grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi per l'assistenza in redazione, Gianmarco Ferronato. Perfetto. Sì, ho detto tutto. Tuttissimo, a domani. A domani.